È molto noto anche a Bologna perché ha vissuto dal 1988 in poi in questa città e lo ha fatto in maniera anche molto visibile, molto intensa, se non altro per tutte quelle generazioni che hanno attraversato un po' il movimento sulle varie tematiche, in particolar modo su quelle carcerarie. Sante è stato un comunista rivoluzionario, rapinatore di banche, detenuto nelle carceri italiane per 21 anni, di cui almeno una decina nelle carceri speciali, ed è stato protagonista di tantissime tappe importanti della storia del nostro paese, soprattutto del movimento. Lui ha vissuto un secolo di vita intensa a partire dalla migrazione in quanto meridionale verso la Torino operaia, dove ha incrociato i partigiani che avevano freschi freschi dimesso la resistenza, e questo è stato un po' il suo imprinting nella sua vita politica di comunista. Dopodiché è vissuta, diciamo così, la delusione di una rivoluzione tradita e di una svolta più istituzionale, più socialdemocratica, diciamo così, del PC di allora. Abbraccia l'idea di una lotta più individualista attraverso la banda Cavallero, rapinando le banche per sostenere la lotta anticolonialista dell'Algeria all'epoca occupata dalla Francia. Da questa vicenda sua personale ne deriva una lunga carcerazione e lui non si arrende all'interno delle carceri, non subisce le condizioni carcerarie, ma diventa protagonista attivo di una serie di lotte importantissime che vedranno poi anche la partecipazione di tanto movimento che entrerà nelle carceri dal 68 in poi. Quindi lui incrocia poi all'interno delle carceri l'esperienza della lotta armata, organizzazioni di cui non farà mai integralmente parte, ma sarà affine a queste organizzazioni sicuramente, fino ad arrivare all'88, un momento in cui esce dal carcere senza aver venduto e senza essersi mai dissociato di nulla rispetto alle sue scelte politiche, e continua la sua militanza, solito sempre molto protesa verso il movimento, verso un'idea di unità del movimento. Non fa parte mai di un gruppo specifico del movimento antagonista, continua la sua lotta per la liberazione dei prigionieri politici, sulle condizioni delle carceri in generale e tanti altri progetti sociali di eguaglianza sociale, di sostegno, di solidarietà concreta contro la guerra. Da aggiungere che lui è stato anche un grande poeta, che ha utilizzato questo strumento importantissimo non tanto per declamare un io lirico, ma quanto proprio per, come strumento anche questo di lotta materiale rivoluzionaria. Una poesia che però, quanto registro artistico molto profondo e figurativo, riesce a vivere oltre i tempi, gli anni e le storie che Sante rappresenta all'interno di queste poesie, quindi insomma è uno strumento molto, molto forte. Riguardo il documentario Sante, storia di un'anima inquieta, da cosa è nato il bisogno di dare vita a questo progetto? Sante inizia a sistemare il suo archivio esattamente un anno prima dalla sua morte. Riusciamo a mettere insieme un lavoro di archiviazione, di catalogazione dei quaderni scritti all'interno del carcere, prevalentemente quaderni di poesie. Poi lui viene a mancare immediatamente dopo la sua morte. Le compagne e i compagni che gli erano vicini hanno pensato di continuare questo lavoro di catalogazione e di archiviazione. Quindi abbiamo ovviamente una mole di materiale importante e interessante dal punto di vista dei contenuti, anche inediti in molti casi, perché si tratta di proclami che sono stati scritti, autografi durante i processi, durante le fasi di processo di rottura, eccetera, eccetera. Quindi insomma ci sono materiali molto importanti, nonché una grande mole di materiale audio-video. È stato per questo che abbiamo pensato di lavorare a questo progetto di documentario, non tanto per raccontare la vita di Sante e avere lui come figura centrale, ma raccontare questo escursus storico che lui ha vissuto da protagonista, da avanguardia, guardia o da acuto osservatore attraverso le sue parole, perché abbiamo davvero una quantità importante di interviste audio-video. Quindi vorremmo raccontarlo con la sua voce, quindi in forma quasi integralmente autobiografica, supportata poi da altri documenti e fonti che abbiamo all'interno dell'archivio e intorno al quale ci lavora un gruppo di compagne e compagne, insomma. L'idea è quello di restituire ovviamente un pezzo di storia raccontato da chi l'ha vissuto, una parte di storia che riceve continuamente operazioni di rimozione e di strumentalizzazione, e attraverso la voce di Sante e una verità storica fondata anche sul dato archivistico vorremmo restituirlo pubblicamente, ecco. Cosa a cui tra l'altro Sante non si è sottratto quando era in vita, perché diversi sono i materiali prodotti anche in video, come ad esempio Sante di Fabio Nardelli e tante altre opere documentaristiche a cui lui si era prestato proprio in quanto testimone. Quali sono gli appuntamenti per la raccolta fondi? Sì, esatto, noi abbiamo lanciato questa campagna di crowdfunding perché ovviamente ci siamo appoggiati, diciamo così, abbiamo chiesto a degli esperti di poterci aiutare a realizzare questo documentario, quindi attraverso il sostegno tecnico e professionale di Bofilm cercheremo di realizzare questo documentario. Abbiamo bisogno ovviamente di un sostegno economico, il motivo per cui abbiamo lanciato questa campagna di crowdfunding sulla pagina Open Produzioni dal Basso e attraverso anche il sostegno di SMK sempre di Bologna. Per dare visibilità a questo crowdfunding, ma in qualche modo per chi ci ascolta e ci conosce sa che l'archivio Sant'Enotar Nicola e l'associazione Bianca Guidetti Serra ha tutti gli anni lanciato comunque delle giornate in ricordo di Sante. Anche quest'anno lo facciamo cogliendo l'occasione per sottolineare appunto la campagna di crowdfunding. Lo stiamo facendo attraverso i social, però faremo anche queste tre iniziative al momento per sostenerlo. Domenica 19 aprile alle ore 17 al Centro Sociale della Pace in via del Pratello 53, un'iniziativa dal titolo Una donna nella resistenza, che è il titolo di una bellissima poesia di Sante, e sarà un'iniziativa in collaborazione con Fratello Resiste nell'ambito delle iniziative che precedono il 25 aprile, alla Libreria delle Donne di Bologna e a Birocchio Studio, che presenta un documentario sempre sulle donne nella resistenza ravennate. Ci sarà la presentazione del libro di Claudio Bolognini, Il nome di battaglia Mimma, la storia di Irma Bandiera. Noi cureremo invece un reading curato insieme a Sante sulle donne nella resistenza. Domenica prossima, il 25 aprile, saremo con il banchetto per distribuire libri e campagna crowdfunding nella festa del fratello del 25 aprile. E il 23 di aprile invece, presso il Cinema Galliera, nell'ambito della programmazione di Open Distribuzione del Basso, daremo la proiezione del video del documentario che Sante realizzò nel 95 insieme a Bernardo Iovine sulla Brigata Stella Rossa di Montesole.